Indossa un cappottino rosso e degli stivali neri. Non sto a descriverla con troppa precisione perché ho paura di emozionarmi. Diciamo che aveva una camminata che mentre mi si avvicinava mi veniva voglia di arretrare per continuare a vederla muoversi. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:07 minuti, questa è Radio 24. Sono Matteo Caccia e sono qui. Lei. Scusa, puoi ripetere? Lui. Ho detto che porto le stesse mutande per 3 giorni prima di lavarle. Lei. 3 giorni? Lui. Anche 4. Se non sono sporche. Lei. Ok. Buona sapersi. Lui. Ti ho detto che ho 35 anni e che mi sono già stufato del mio lavoro? Ecco, questo sarà un grosso ostacolo per chi mi starà vicino per i prossimi 5 anni. Lei. Ecco, vedi, questo è il tipo di cosa che non direi mai nei miei primi 6 mesi di relazione. Lui, e invece no, mi è capitato troppe volte la stessa cosa. Trascorre insieme un anno fantastico, poi lei capisce che non ti stacchi dalla TV quando c'è il basket e ti lascia. Lei, vedi, ci vuole tempo per queste cose. Lui, io non ho più tempo, voglio sposarmi e voglio un figlio. Lei, e hai una soluzione per questo? Lui, sì, la sincerità totale. Scusa, se compri un'auto e una casa, ti devono dire tutto quello che non va, giusto? Perché non può essere lo stesso per una relazione. Ok, comincio. Quando sono in viaggio di lavoro andrò a vedere Spogliarelli e mentirei tranquillamente al riguardo. Pensato di farti un piacere. Lei, tranquillo, non c'è problema. Io sono un segugio. Controllerei la tua agenda, il tuo telefono. Guarda, ti potrei anche pedinare. Lui, davvero? Lei, sì. Lui, ma non ti fidi di me? Lei, ma hai appena detto che mentiresti senza problemi. Lui, sì, ma te l'ho detto. Lei, è bene che tu sappia che i miei genitori ci inviteranno ad ogni festa. Lui, quando andremo dai miei, mia madre ti ignorerà completamente. Dopo 3 birre invece mio padre ci proverà con te, mentre mio fratello lo farà dopo una sola. Lei, mio padre è piuttosto ricco, vuole avere tutto sotto controllo. Pensa che comprerebbe la casa accanto alla sua per affittarcela ad $1 al mese. Lui, stai scherzando, vero? Lei, no. E non si limiterà alla casa, ma passerà anche ai mobili, a una BMW. E se per te va bene, ti tratterà come un impiegato per il resto dei tuoi giorni. Lui, ok, ok, ora si ragiona. Lei, non ti ho spaventato? Lui, sì, mi hai terrorizzato. 10 anni dopo, a cena, in un altro ristorante. Lui, sai che cosa dovevi dirmi subito? Lei, che cosa? Lui, che adora litigare. Lei, adoro litigare. E te ne accorgi solo dopo 10 anni di relazione. Mi dovevi dire che ci metti un po' di tempo per capire le cose. Lui, sai cos'è? È che bisogna essere un po' scemi per sopportarti. Lei, buon anniversario. Lui, buon anniversario. Lei, grazie per il regalo, è bellissimo. Lui, ma non l'hai ancora aperto? Lei, sì, ma ti ho pedinato il giorno in cui l'hai comprato. Visto che ieri se ne è parlato di questo film e visto che, come sempre succede quando non mi ricordo una cosa, qualcuno all'ascolto ci pensa per me e me la segnala, questo è il cortometraggio di cui parlavamo, appunto, che si intitola in italiano Tutti i miei difetti, amore, e in inglese è Full Disclosure. Ringrazio anche Laura Fichera che l'ha caricato sul profilo Facebook e andate a vederlo se vi capita, se avete voglia. Non è proprio un cortometraggio, credo che sia un mediometraggio, giusto Bonini, te ne sai, perché sono 20 minuti. Fino a 20 minuti è un cortometraggio. Qui è un cortometraggio ed è, come dicevamo, la storia di questi due che sono al loro primo appuntamento e si dicono tutti i difetti per evitare errori. 800 24 00 24, 349 238 6666, perché io ho promesso che vi avrei raccontato tutto e quindi oggi vi racconto tutto come al solito e vi racconto anche il mio primo appuntamento dell'altra sera. Ora, io in quel primo appuntamento ho commesso un errore molto grave che ha un unico nome, ha un titolo, diciamo. L'errore è cozze. Ora io vi racconterò com'è andata quella serata e vi racconterò qual è stato il mio errore. Io però vorrei che voi vi metteste una mano sulla coscienza e una sulla memoria e cerchiate di ricordare com'è andata quel vostro primo appuntamento in cui avete commesso un errore gigantesco, ma proprio una roba macroscopica, perché vorrei proprio fare una sorta di compendio delle cose da non fare al primo appuntamento. 800 24 00 24, oppure 349 238 6666. Guardate, vi faccio un esempio di alcuni dei messaggi che sono arrivati sul profilo Facebook. Piero mi scrive: durante il mio stage di 3 mesi in Giappone esco con una ragazza giapponese, lei spiccicava a malapena l'inglese, per cui l'uscita è stata condita da lunghi monologhi da parte mia che si concludevano con facce particolarmente confuse da parte sua. Alla fine ho simulato un mal di testa terribile e me ne sono andato a casa. Direi che sono due gli errori qua, sono lingua straniera e monologhi, quindi questi sono gli errori da non compiere: non andare con una che non parla la tua lingua e soprattutto non fare troppi monologhi. Ce n'era un altro però di messaggio, Vabbè, quello di Dennis però è veramente come sparare sulla Croce Rossa. Dennis mi scrive: durante la mia vacanza a Cuba, primo appuntamento con una bella ragazza. Era venerdì 17 agosto. Dopo 3 ore di baci, mi addormento. Lei mi ruba tutti i soldi. Dopo un giorno di confusione mentale, scopro che era un trans. È stata una delusione tremenda. Ma ci tiene a scrivere, tra parentesi, non ho fatto sesso. Dopo 13 giorni a 600 km di distanza, la rivedo in spiaggia e con la polizia mi faccio restituire tutti i soldi. Che bel primo appuntamento. Qui direi l'errore è abbastanza semplice, monitorare prima di uscire. 800240024 349-238-6666. Magari siete usciti ieri sera, avete fatto uno di quegli errori tipo non accompagnarla sotto casa, oppure non rimanere lì ad aspettarla davanti al portone, giusto? Anche Rudy fa delle facce come dire: certo, questi errori non si devono fare, oppure non pagare per lei. Cose che vi hanno completamente rovinato il primo appuntamento. Valgono anche le donne, che magari raccontano quello che hanno combinato gli uomini, oppure gli errori che hanno fatto loro. 800240024 0024 349-238-6666, perché è uno scambio. Voi mi raccontate i vostri, io vi racconto il mio. Conosco Natalie da pochi giorni, ma mi ha fatto perdere completamente la testa. Questo è un dato ormai chiaro. L'ho scoperto in maniera inequivocabile. L'ho scoperto l'altro giorno, quando mi ha detto che non poteva uscire con me perché doveva andare a cena con il suo fidanzato. Quello che ho provato non è stato solo la sensazione di dispiacere perché non avrei potuto vederla. No, è stato proprio un dolore assoluto, una cosa che mi ha precipitato in uno stato di profondissima angoscia. Alternata a momenti di euforia che mi venivano dal pensiero che forse lei, boh, chi lo sa, magari stava fingendo per fare la preziosa, tipo. Un po' come si fa nelle scremaglie amorose, no? In stile le relazioni pericolose. Sono innamorato e sono certo che lei sia la donna più bella del mondo. L'unica in grado di capirmi. L'unica che può completare la mia stessa vita. Sono innamorato e quindi non sto bene. Deliro, sudo, vedo cose che non ci sono. Cerco di mantenere un certo aplomb, ma lo sento che sono malato, mi sento la febbre. Ho completamente perso l'appetito. Non mangiare inoltre mi causa una debolezza che curo esclusivamente con il cappuccino. Sembro Marco Pannella in sciopero della fame. Ogni tanto ho dei capogiri, mi guardo da fuori e rido di me stesso. Sono ridicolo eppure banale. Sono completamente trasceso dai miei sentimenti. Nel mio stato di malattia, a complicare le cose, è subentrata la variante dell'orgoglio. È per questo che quando ieri ho ricevuto un SMS che recitava «Ciao Matteo, ci vediamo?», nonostante i brividi gelati e il senso di eccitazione che mi ha subito preso, ho risposto con un «Non lo so, ci devo pensare». Credevo che si trattasse della giusta vendetta rispetto al suo rifiuto del giorno prima, però poi ci ho messo 5 minuti a mandare un secondo messaggio dove le scrivevo «Ok, va bene, dove?». Intanto si è fatto buio e la sera si avvicina e io lo so che sono gli uomini a dover proporre dove vedersi e a che ora e a passare a prendere le ragazze. E allora faccio un rapido giro di consultazioni con le mie amiche per chiedere dove loro vorrebbero essere portate da uno spasimante. E individuo un paio di indirizzi, ognuno dei quali però ha qualcosa che non va. E mentre sono su internet a cercare su TripAdvisor le recensioni scritte da qualche turista spagnolo su un locale che sta dietro casa mia, mi arriva un SMS di Natalie che mi dice: ci vediamo alle 8 alla cozzeria. Perfetto. È così che si fa. È così che si decide cosa si vuole. È così che si dimostra a una donna chi porta i pantaloni. Sì, mi piace Natalie. E mi porterà alla rovina. Me lo sento. A me piace lei, e lei piace a me. E vorrei che mi vedesse, che la pensasse esattamente come me. A me piace lei, e lei piace a me. Alla cozzeria c'è una fauna che è dura da descrivere. Esili pugliesi in cerca di qualcosa che gli faccia dimenticare di essere a Milano. Turisti tedeschi attirati da un banner probabilmente trovato su un sito di Monaco di Baviera. Milanesi in cerca di un'estate che non c'è più. In questo posto si respira un'aria di mare come a Las Vegas si può respirare quella di Venezia. Il locale offre una ghiotta opportunità, la possibilità di mangiare solo i suddetti molluschi cucinati in una decina di modi. Ci sono anche le cozze alla belga, cioè le cozze con la panna acida. Però non è il piatto più desiderato. La maggioranza dei clienti chiede la pepata di cozze. Lo so perché ho studiato prima di uscire di casa. E ho dovuto studiare per una ragione molto precisa. Perché a me le cozze fanno schifo. Alle 7:15 sono davanti all'ingresso, molto accaldato. L'anticipo non è una grande idea, perché l'attesa è snervante. Quando Natalia arriva ed è passata un'ora, io sono già distrutto dalla fatica. Lei indossa un cappottino rosso e degli stivali neri. Non sto a descriverla con troppa precisione perché poi mi emoziono. Diciamo che ha una camminata che quando ti si avvicina ti verrebbe voglia di arretrare per continuare a vederla muoversi. E io mi guardo ancora da fuori e rido di me e della mia condizione. Sto lì con la faccia da decerebrato e la bocca semiaperta, cosa di cui mi accorgo solo quando la chiudo, perché praticamente mi si sono seccate tutte le labbra. Non le do la mano perché è orribilmente sudata, scelgo di provare a baciarci sulle guance e la cosa funziona. In un attimo lei ha deciso di entrare e prendere un tavolo vicino alla cucina e inizia a parlare. Io la lascio ordinare tralasciando il particolare sui miei gusti riguardo alle cozze. Lei è entusiasta e mi racconta di quando passava l'estate a Procida con i suoi genitori e suo padre le insegnava a pescare. E così a vederla da vicino con un bicchiere di vino in mano non sembra per niente il maschiaccio che racconta di essere stata. Io non bevo e non tocco le cozze, ma lei non se ne accorge perché è un fiume in piena. Le mangia con le mani e beve tanto e le guance le diventano rosse. E poi arriva a parlare del suo fidanzato. In quel momento noto che osserva il mio piatto, che è ancora pieno, quindi, nonostante il senso di ribrezzo, inizio a mangiare quelle mostruose cose arancioni. Almeno così lei potrà concentrarsi di più e parlarmi del suo fidanzato. E più mangio, e più insiste a dire che la sua storia non funziona, che lui è distante, che è freddo, è tutto concentrato sul suo lavoro, che ha un rapporto logoro. Questo mi mette un tremendo appetito e trovo buone perfino quelle cose che ho davanti. E lei insiste. La storia è davvero alla fine. Lo capisco perfino io, che su queste cose non ci prendo mai. E lei mi dice che è contenta di sfogarsi. E una volta usciti all'aria fresca, ci stringiamo l'una all'altra. E quando siamo pericolosamente vicini, capiamo che o ci allontaniamo o ci baciamo. E ci baciamo. Non è un bacio lungo, però è molto dolce. E mentre la bacio, mettono in mente tutte le cozze che ho mangiato. E lei sorride. E a me torna un po' di nausea, ma non lo so, forse è per la tensione. Come sei bianco, mi dice lei, e io mi accorgo che effettivamente sto per vomitare. E faccio appena in tempo ad allontanarmi dal suo cappottino rosso e andare tra le macchine parcheggiate. E io, che odio vomitare, lo faccio felice, perché l'ho baciata. Solo che lei non viene a soccorrermi. No, no, se ne sta in disparte, come si conviene giustamente a una signora. Anzi, se ne sta talmente in disparte che quando mi riprendo e torno verso il locale, non la trovo. E io non so se cercare lei o un bagno, perché devo vomitare ancora. E sto così male che quasi quasi vado al pronto soccorso. Il primo messaggio che mi arriva è: Matteo, ma che schifo! E effettivamente non c'ha tutti i torti. Gli errori però sono dei più vari. Allora, primo appuntamento: mai dimenticare di passare a prelevare la figura. Davanti alla cassa è stata indescrivibile. Lei ha pagato e si è messa a ridere. Non avrà smesso per 5 minuti. L'ha presa anche bene, Simone. Al primo appuntamento di quella che poi è diventata mia moglie, le ho chiesto se praticava sesso alternativo. Cos'è il senso alternativo? Cosa significa? L'ha presa bene, però mi ha riso in faccia. 800240024 349-238-6666. Se avete il coraggio di farlo, mi raccontate qual è stato l'errore che avete commesso, roba. Ma vale anche esservi dimenticati di accompagnarla sotto casa e averla fatta camminare magari alla barona alle 2 di notte da sola, fino sotto il portone. Errori? Ho sputato la gomma da masticare sul maglione di lei. Questo non è un errore, l'hai fatta apposta, perché non è che sputi sul maglione di lei. 80024 0024 349 238 6666. Io l'altro giorno, prima di uscire, ho addirittura cercato sul mio amico Google, dove si trova tutto, proprio ho inserito regole per il primo appuntamento. La prima cosa che esce è un blog, credo, criptofemminista o veterofemminista, non saprei dire, in cui ci sono, sette regole per il primo appuntamento, chiaramente date da una donna a un uomo. Ve ne leggo qualcuna, perché alcune sono di base, altre sembra che questa donna abbia sempre avuto a che fare solo con dei trogloditi. Uno, non si dà mai buca a una donna. E soprattutto, una cosa deve essere chiara: lei è la cosa più importante. Sempre, non solo all'inizio. Non esiste che tipo, no, per domani, scusa, ho promesso al mio amico che ci sfidiamo con la PlayStation. Oppure, facciamo domani ma alle 8 in punto, ti riaccompagno a casa alle 8:30 che c'è l'Italia in TV. L'Italia in TV la vedo difficile, nazionale, chi se ne frega, tipo l'Inter o il Milan. Oppure non esiste, oh scusa, era oggi? Mi sono addormentato sul divano, sai, ero stanco. Categoria trogloditi. 2. L'uomo va a prendere la donna e va a prenderla a casa. È fuori dal mondo il vedersi a metà strada, oppure il classico fatti trovare qui, ok? 3. Arrivati sotto casa sua si parcheggia e si chiama, oppure si fa uno squillo. Si citofona solo nel caso in cui lei viva da sola. 4. L'uomo deve avere già in mente almeno un posto o due dove portarla. Poi l'educazione vuole che chieda se lei ha delle preferenze. Se lei vi risponde di sì, che aveva pensato di andare lì, non potete mettervi a dire ma no, io volevo portarti da un'altra parte. 5. Qualsiasi cosa si faccia, è l'uomo che deve offrire. Non importa se non ti piace, non importa se non te la farai o se ti ha già fatto capire che non ti sopporta. L'uomo deve offrire. 6. Non si parla dell'ex tutto il tempo, e va bene. 7. Non si guardano le altre donne che passano. Vabbè, ma al primo appuntamento, dai, cioè uno guarda le altre donne al primo appuntamento. C'è solo lei e deve sentirlo, deve sentirsi unica. 8. Finita la serata, si manda un SMS per ringraziarla. Vabbè, ma questa manco a mia madre. E darle la buonanotte, anche se l'avete già fatto prima che scendesse dall'auto. Può sembrare un punto banale, ma non lo è affatto. Per quelli più maturi, e se l'appuntamento è una cena, sarebbe carino mandarle dei fiori il giorno dopo con un bigliettino per ringraziarla. Va bene, sorvoliamo sui gesti maschili di là in regia. 800240024 349-238-6666. Oscar. Cioè, questo veramente veniva bocciato. Ah, ok, no, questo lo leggiamo dopo. Nico da Brescia. Cotto di una coetanea, mandai le rose. A proposito di rose da mandare, era domenica, ma non mi resi conto che era la festa della mamma. La famiglia ha preso un colpo pensando fosse incinta. Non mi ha mai più rivolto la parola. 80024 0024 349 238 6666. Mandiamo la borsa e dopo la borsa io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella fotografia siamo in un campo di calcio. Siamo di notte e siamo in un campo di calcio di provincia, oserei dire. C'è un fango che manco in Vietnam durante la stagione delle piogge. È tutto buio, si vedono giusto le luci dei fari dei campi di provincia o di paese. C'è una porta là sul fondo e c'è un gruppo di amici che sembrano più un ammasso di terra e di acqua. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non so se sono 9 o 10. Hanno fatto evidentemente allenamento, forse hanno giocato al calcio, si mischiano col fango e soprattutto hanno una bella faccia sorridente. Gianpaolo Gallini, 20 anni, insieme ai pochi irriducibili che hanno avuto il coraggio di venire all'allenamento nonostante un campo infangato. Serata fantastica, io sono qui. Aveva la voce un po' titubante però, eh? Era giovane, Vittoria dice che era giovane, aveva quasi paura. Quanti anni aveva Vittoria? 19, 20 anni, 20 anni. 80024 0024 349 238 6666. Vi leggo prima alcuni dei messaggi, eh? Allora, al primo appuntamento mi sono portato un amico perché non avevo capito che era un appuntamento. E a lui ha pure detto che no, non era di disturbo. E poi abbiamo, se può farti piacere, questo è il mio preferito, guarda, purtroppo abbiamo cercato di chiamarlo ma lui non può per lavoro, ci ha detto. Al nostro primo appuntamento, no, se può farti piacere, io ho vomitato a quasi tutti i miei primi appuntamenti, ma senza farmi vedere, tranne che per il mio ultimo primo appuntamento in cui ho vomitato davanti a lei. Beh, insomma, sai qual è la soluzione? Che ci sposiamo. Vabbè, basta, questo è un pezzo di South Park in cui c'è un personaggio che si chiama, non so se l'avete mai visto, si chiama Kylie, che ogni volta che vede una ragazza vomita. Andate, ve la ridò, posso? Me la ridai, Rudy, per piacere, che... Dopo lo carichiamo su Facebook, per il piacere di tutti. 80024 0024. Ho perso le telefonate davanti. Eccolo qua. Andiamo subito a sentire Simone da Cremona. Pronto, Simone? Pronto, ciao. Ciao, come stai? Bene, grazie. Senti, allora Simone, leggo quello che... dopo il primo appuntamento ha scritto un sms all'amico per dire che era andato tutto bene, ma anziché mandare all'amico l'ha mandato alla ragazza. Cosa ha risposto lei, Simone? Ma in realtà è andata bene, nel senso che vabbè, ho fatto tutta la notte in bianco pensando a quello che poteva dirmi, perché lei non mi ha risposto alla fine. Ma il giorno dopo era molto arrabbiata, però alla fine è andata bene due volte, nel senso che è andata bene perché ci siamo messi insieme, ma è andata ancora meglio perché dopo un mese ci siamo lasciati, quindi benissimo. Alla fine è andata bene. Adesso sei single, Simone? Adesso no, ho felicemente una ragazza da 4 anni e sono bravo. Felice. E non hai più amici a cui mandi messaggi. Ciao Simone, no, buona non giornata. Ho più il cellulare. ciao, meglio ancora. Ciao, grazie. Andiamo da Fabrizio a Firenze. Pronto Fabrizio? Sì, ciao a te, buonasera. Ciao, buonasera. Senti, tu stavi baciando una ragazza in discoteca, giusto? No, ti racconto l'episodio. Anno 1994, okay, casa in montagna con gli amici, amico che faceva da mangiare il cuoco, sì, che faceva da mangiare in un modo molto pesante, aglio, cipolla. La sera tutti in discoteca, alla famosa sana di Sestola. Arriviamo in discoteca, mi aggancio con una ragazza. Dopo cos'è che fai con una ragazza, scusami? Cosa fai? Ci si prende... Mi aggancio, no? Hai detto mi aggancio, ok, perfetto, perfetto. Sì, sì, sì. E praticamente dopo un quarto d'ora che stavamo baciando, lei mi fa, dice, meno male che mi piace la cipolla e l'aglio. Cioè, una roba... Com'è finita, Fabrizio? Fabrizio, guarda, ti sento malissimo, però è arrivato, il dettaglio è arrivato, aglio e cipolla. Grazie mille, buona giornata. Andiamo a Lorenzo, giusto, perché prima è arrivato questo messaggio. Primo appuntamento con la mia attuale moglie francese. Eravamo a Dublino dopo cena, quindi ore 19 all'incirca. Lascio il cellulare acceso e chi mi chiama? Mia mamma. Rispondo, ciao mamma. Margot scoppia a ridere. Pensate alla figura dello stereotipo del ragazzo italiano che vive ancora con i genitori. Eccomi qui, pronto Lorenzo? Sì, pronto, ciao. Eccoti qui. Ciao. Senti, tu dove vivi adesso, Lorenzo? A Gorgonzola, provincia di Milano. Ah, sei tornato da queste parti? Sì, sono tornato io, lei vive qua, adesso si è trasferita. Però... Margot vive a Gorgonzola? Margot vive a Gorgonzola. Che culo, sì. Tu pensa, da Dublino direttamente a Gorgonzola. E cosa fa Margot nella vita? Insegnante di francese in Italia. Vedi, a Gorgonzola. Sì, a Gorgonzola, diciamo. Dove trova posto di certo, volta in volta. Dove capita. Senti, hai più detto a tua madre di non chiamarti tu quando sei fuori con una ragazza, oppure? No, ho imparato la lezione, la prossima volta spero che non ci sia, ma ho imparato a spegnere il cellulare. Ma magari anche tua moglie spera che non ci sia la prossima volta, probabilmente. Lorenzo, sì. Grazie mille, saluta Margot. E tutta la cittadinanza di Gorgonzola, ovviamente. Ciao, okay, ciao, grazie. Ciao. Io ho un amico che vive a Gorgonzola che mi ha spiegato che Gorgonzola, non lo so, se qualcuno lo sa, 349-238-6666, che Gorgonzola si chiama così perché ci lasciavano il formaggio marciva e si è trasformato in Gorgonzola. Non so, sto dicendo una boiata probabilmente, però me l'ha raccontato Tex e io lo do come oro colato. Andiamo da Simone. Pronto Simone? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, dai, non ci si lamenta. Senti, tu prima sei quello che mi ha scritto che bisogna ricordarsi di prelevare prima di andare al primo appuntamento. Mamma mia, non ne parliamo. Ma scusami, non potevi pagare col bancomat? Come? Non ce l'avevo dietro. Vabbè, ma allora come facevi a prelevare se non avevi il bancomat? L'avevo lasciato proprio a casa. Ah, credevo tu andassi ancora, credevo fossi ancora uno dei pochi che andava allo sportello a prelevare i contanti. Ha pagato tutto lei, quindi? Tutto lei ha pagato. Quanto era il conto? È stato un appuntamento un po' tipico, Ci siamo visti sabato pomeriggio, siamo andati a fare il giro della fiera del paese, poi l'ho portata a prendere gelato, era tipo marzo. Posto lì vicino, vado lì alla cassa e non c'era niente, non c'era nel portafoglio, manco 2 euro. L'hai scoppiata a ridere come una pazza, ha offerto a lei alla fine, e l'ha presa anche bene però. Senti, quanti anni avevi Simone? Perché per portarla a fare il giro del paese mi auguro tu avessi sui 15-16. No, ne avevo 21. Ah, perfetto. Adesso quanti ne hai adesso, Simone? Sono passate 2, 23. Ah, perfetto. Sei ancora con lei? No. No, è durata una settimana. Hai una fidanzata, Simone? No. No. Hai una fidanzata, Simone? No. Benissimo. Direi che, secondo me, Simone, dovresti ragionare più non tanto sul fatto che non hai pagato il conto, quanto che l'hai portata a fare il giro alla fiera del paese, eh? Ok, vedrò cosa. Di dove sei? Di dove sei? Di dove sei? Com'è? Di dove sei? Sono di Treviglio, in provincia di Bergamo. Treviglio, come no, certo, più che un paesone. Chi non lo conosce? È un paesone. Ciao Simone, grazie, buona giornata. Ciao. Lui, secondo me, è il migliore di tutti invece. Oscar che mi ha scritto, l'errore è stato, ho scelto il ristorante che dava la partita. Pronto Oscar? Pronto Matteo. E magari l'hai messa anche con le spalle al maxi schermo. Leggenda vuole che sia così, quindi... con lei a spalle alla partita, io davanti, però ormai ho rimosso, sono quelle cose entrate ormai nella leggenda. Ma che partita era? Allora, giocava il Milan, era una domenica sera, e però non ricordo, io mi ero comunque perso nei suoi occhi, poi intanto cadeva l'occhio sulla palla che girava. Ma tu sei milanista? No, sono juventino, quindi per questo ti dicevo che la cosa è entrata nella leggenda, è la cosa che mia moglie ora mi rinfaccia più volte l'anno, ricorda questo episodio del ristorante. Perché adesso è tua moglie, però è tua moglie. Sì, quindi uno sbaglio che non è stato uno sbaglio. Perché effettivamente quando tu non guardi la tua squadra che gioca, però così, soprattutto tipo se gioca al Milan, se una squadra segna al Milan, comunque fa piacere anche se sei della Juve, giusto? Sì, ma sì. No, in quel caso eri perso nei suoi occhi. Grazie Oscar, buona giornata. Ciao Matteo. Ciao, alla prossima. Io l'ho portata a prendere una birra alla ACLI, Associazione Cattolica Lavoratori Italiani, e da lì non l'ha più vista. Enrico, pronto? Matteo. Ciao. Sì, ma perché l'hai portata all'ACLI? Alle ACLI perché è il mio bar preferito, sotto casa, dico se le sta bene questo la sposo. Questo faceva parte della categoria, guarda, ti dico tutto di me, anche il peggio ti dico, esatto, vediamo se resisti. Di che paese sei? Di Osimo, provincia d'Ancona. Ah, ok. Com'è finita? Niente, è finita male che non l'ho più vista, niente. Però adesso Enrico sei felicemente fidanzato? Sì, adesso sì. Bravo, l'hai portata dove al primo appuntamento? No, alle ACLI, però in secondo appuntamento ce l'ho portata. Ah, comunque ancora va bene. Comunque per te l'ACLI, diciamo, è un posto da cui non si prescinde. Sì, va bene. Stile di vita. Enrico, grazie mille, ciao, buona giornata. Ciao Matteo. Primo appuntamento, mai dire che sei appena usciti da una relazione di 6 anni. Reazione di lei, dovresti essere a casa a piangere per lei, mica qui a provarci con me. Al nostro primo incontro, Marina di Bibbona, andiamo in pizzeria, ordino la pizza con le cipolle, non mi ha mai più perdonato. Chiudiamo, ci sono ancora una telefonata. Aspetta, mi dicono intanto il significato di Gorgonzola, è stata la prima piazza di vendita ai mercati di Gorgonzola. Ma questo l'hai trovato tu, Vittorio, o è arrivato un SMS? L'hai trovato tu, certo, ovviamente. Un SMS. Pietro da Milano. Pronto, Pietro? Pronto. Ciao, Pietro, come stai? Bene, bene. Sì, io... bene anch'io, nonostante tutto. Dai, raccontami velocemente qual è stato il tuo errore. Allora, praticamente è successo questo. Io dovevo... ce l'avevamo sentiti prima del telefonicamente. Ho detto, vieni a prendere tu. Io, ovviamente, per fare il galante, per fare il cavaliere, ho detto assolutamente sì, non c'è problema. Certo. Lei mi comunica la sua posizione, che era via Watt. Sì. E mi fa, ma sei sicuro? Sai dov'è, no? Sei sicuro? Sì, non ti preoccupare. Io l'ho ovviamente gasato per la serata e l'ho dato per sicuro, pensi dov'era. Sì. Niente, a questo punto io parto da casa col mio mezzo fiammante, a quell'epoca era un motorino. Sì, arrivi e dove? Arrivo e mi trovo in via Ampere, ero sicurissimo del fatto che fosse via Vatte. Certo, come... Il cervello, non so in quale modo, sai, ha collegato via Ampere e via Vatte. Ma certo, guarda Pietro, perché tra di noi elettricisti questi errori si fanno molto spesso. Pietro, devo salutarti, grazie mille però, buona giornata. Grazie, ciao. Ciao, alla prossima. Grazie a lui, grazie soprattutto a Francesco da Napoli, che mi scrive, che è la madre o il padre di tutti gli errori. Le ho dato più anni di quanti non ne ha, non me l'ha mai perdonato. Grazie a lui, grazie a Fabio Cantadori, grazie a Tiziano Bonini, a Vittorio Mussini e a Stefano D'Andrea. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?